Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 Archivio Bot. Wender e Fabio Alisei presentano... Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. E basta. Il marchio di fabbrica dell'azienda col baffo condensa in sole tre parole tutto il significato di una delle attività umane più vaste e complesse: lo sport. Una sola parola per un sistema di universi che si compenetrano, congiunti dal movimento fisico come costante indispensabile, esplosi da milioni di possibili declinazioni. Lo sport, come l'amore, è un concetto personale. Ognuno ne vive un'esperienza singola, individuale, perfino quando diventa collettivo, perfino quando diventa spettacolo. E se lo sport ha bisogno di muscoli, i muscoli hanno bisogno di energia. Aria, sostanze nutritive, sali minerali e musica. Dal nuoto sincronizzato alle playlist nelle AirPods, dagli inni nazionali alla canzoncina della Champions, il legame fra sport e musica è atomico, come quello tra idrogeno e ossigeno. Andiamo alla scoperta di 10 canzoni connesse con lo sport, anno dopo anno, sfida dopo sfida, in una raffica di scatti col flash. Cronometro alla mano, pronti, partenza, via. Inizia Polaroid. Istantanee di storia della musica. 1997, Castleford, periferia di Leeds. Il disco dei Chumbawamba è uscito da soli tre giorni e il prestigioso mensile musicale Rolling Stone l'ha già inserito nella lista delle 12 canzoni più fastidiose di tutti i tempi. In effetti è un brano piuttosto insolito per una band che ha alle spalle ben 7 album di canzoni anarchico-comuniste contro la Thatcher, il sistema e i fottuti colletti bianchi della City. E forse è per questo che funziona. Anzi, funziona così bene che l'Australia la adotta come inno ufficiale del campionato nazionale di rugby. Funziona così da Dio che finisce nelle case di 20 milioni di ragazzi sotto forma di CD-ROM. In copertina ci sono Beckham, Raul e Maldini. Il videogioco si chiama FIFA Road to World Cup 98 o più semplicemente FIFA 98. Il calcio che ha cambiato la storia della EA Sports. EA Sports, it's in the game. Ecco come un gruppo di marxisti da pub diventa la colonna sonora di uno dei capitalisti più potenti del mondo. Drink some vodka, drink. You drink some 1982, New York City. Chiudete gli occhi per un istante e immaginate Rocky Balboa che si allena sulle note di Another One Bites the Dust dei Queen. Dai, comincia! Forza, acchiappala! Acchiappala, acchiappala! Andiamo, incrociamo la marcia, prendila! Beccala, beccala, non mollare! Vi suona strano? Beh, non dovrebbe, perché è proprio così che Sylvester Stallone si era immaginato la scena del suo terzo film sul pugile italiano. Solo che i diritti non arrivarono. Come non arrivarono Robert Redford e Burt Reynolds nel cast degli altri due. La storia di Rocky Balboa e dell'uomo che l'ha raccontata è un'alternanza di vittorie e sconfitte, da quando Stallone accettò il ruolo in un porno e vendette il cane per pagare l'affitto, a quando se lo ricomprò per $5,000 dopo averne incassati 225 milioni al botteghino. La sua capacità di rialzarsi dopo essere finito al tappeto, come Muhammad Ali nel match contro Chuck Wepner, che ispirò la storia dello Stallone italiano, ha fatto di Rocky Balboa il personaggio simbolo del pugilato e della canzone che lo ha motivato, dopo lo sdegnoso rifiuto dei Queen, il mantra degli occhi della box, gli occhi della tigre. Perché mi fai questo? Perché non puoi vincere, no? Quel tizio ti fa secco nel giro di 3 round! Allora, le persone a capo delle squadre pensano solo a comprare i giocatori. Ma lo scopo non deve essere comprare giocatori, dovrebbe essere comprare vittorie. E per comprare vittorie lei deve comprare punti. Quando io guardo Johnny Damon, quello che vedo è un'imperfetta comprensione di dove realmente nascano i punti. 2005, Comerica Park, Detroit. Lo chiamano il mangiacaramelle, oppure il latte. Ma al secolo fa Bobby Kelly Abreu, esterno destro venezuelano in forza ai Philadelphia Phillies. È il primo lunedì di luglio e Bobby si è già messo in tasca il titolo di giocatore del mese e la chiamata per l'All-Star Game. Oggi però si gioca l'Home Run Derby, il match tra i giocatori più forti delle due leghe di baseball americane, la Major e la National. Bobby entra sul diamante fra gli applausi dei poliziotti, che anche questo mese hanno ricevuto puntualmente il suo assegno. Perché Bobby ci tiene ai ragazzi in divisa e loro tengono a lui, qualsiasi cosa questo voglia dire. È una serata speciale, Bobby lo sente nell'aria. Ha già battuto 23 home run ed è a un passo dal record nazionale. Il lanciatore sceglie una palla curva, il punto debole di Bobby. Ma è una serata speciale, come dicevamo, e Bobby la prende piena, l'alza in cielo e la spedisce fuori dallo stadio. Il mangiacaramelle è entrato nella storia e dalle casse esplode l'inno dell'Home Run Derby, quella dedicata a tutte le stelle come Bobby La Lece Abreu. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Wisconsin. Alla fine del terzo quarto, la Madison University è avanti di 10 sugli ospiti, con palla in mano e 10 yard da fare. Jim Sorgi ha completato 12 lanci e si mormora che finirà in NFL ai Chicago Bears. Intanto però c'è un rito da rispettare. Una tradizione che l'anno scorso è stata vietata per paura che le vibrazioni provocassero danni strutturali allo stadio. Durante l'inverno, dopo una raccolta di firme degli studenti, un'equipe di ingegneri ha compiuto rilevamenti approfonditi sull'edificio. Secondo i loro calcoli, i pilastri portanti del Camp Randall Stadium dovrebbero reggere, cioè 99 su 100. Così il DJ del campus punta il cue, lascia andare la traccia e la tradizione ricomincia a vivere. 10.000 tifosi saltano, cantano gli House of Pain. Il viaggio non finisce mai. Solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Su Radio 105. 1984, All Valley, Karate Championship. Daniel LaRusso sosterrà l'incontro. Non vi sembra che questa sia una magnifica notizia? Avremo l'incontro. Come va la gamba, figliolo? Bene, è a posto. Stiamo per assistere al grande evento. L'incontro finale ci mostrerà chi dei due sarà vincitore e campione del torneo di All Valley riservato ai minori di 18 anni. Daniel LaRusso del Miyagi-Do Karate. No, Miyagi-Do. Miyagi-Do Karate. Si incontra con John Lawrence del Cobra Kai. Tre punti vincono. Buona fortuna, ragazzi. Buona fortuna. Il finale del match lo conosciamo tutti. Due punti a testa. Johnny Lawrence cerca di spezzare la gamba alla Russo. Daniel San fa la mossa della gru, lo sdraia con un calcio in faccia, vince il torneo e musica. Ok, fermiamoci un attimo. C'è una parte della storia che nessuno conosce e non riguarda il karate o le vite dei personaggi, che 30 anni dopo sono tornati su Netflix con ben 3 stagioni dell'improbabile Cobra Kai. Il dettaglio che molti ignorano riguarda il signor Joe Esposito, di professione musicista. Ora, questo Joe, detto Fagiolo, di chiare origini italiane, è uno che collabora con Giorgio Moroder, Aretha Franklin e Donna Summer. Non ha mai cantato in vita sua. Le sue canzoni, infatti, le cantano gli altri. Ma questa qui, You Are The Best Around, Joe la sente particolarmente sua e vuole cantarla lui. Ci tiene. Così la incide e va a proporla a Sylvester Stallone per Rocky 3, il quale però ha appena firmato coi Survivor. Allora cerca di piazzarla alla Paramount per la colonna sonora di Flashdance, ma il suo amico Moroder gli ha fregato il posto con Maniac, con la quale, tra l'altro, vincerà pure un Grammy. E addio Joe. Il signor Fagiolo Esposito è davvero giù di morale e pensa di spararsi un colpo perché, come dice il maestro Miyagi, non sta trovando il suo equilibrio. Ma qualche giorno più tardi arriva una telefonata da Bill Conti, autore delle colonne sonore dei primi Rocky, che gli chiede: «Ehi Joe, che ne hai fatto di quella canzone che volevi piazzare a Stallone? Perché avrei un teen movie sul karate che forse può andare bene». Ecco, Banzai. Adesso può ripartire la canzone. Oh, 2018 March Music Madness. Una giuria composta da star dello sport, della musica e della comunicazione si incontra sul palco virtuale di Spotify per eleggere la Best Workout Song, la canzone più perfetta per allenarsi. I brani in gara sono estratti da decine di migliaia di playlist personali che gli utenti della piattaforma usano durante le sessioni di corsa, crossfit, pilates, spinning, bodybuilding e molte altre discipline. Riviviamo il momento della proclamazione sotto forma di hit parade. Fai girare la base, Wender. Alla posizione numero 5 della Best Workout Song Chart, Bruno Mars con 24K Magic. Alla numero 4, Steve Aoki con Azukita. Posizione numero 3, con un clamoroso rewind in zona anni 80, troviamo Salt and Pepper con Push It. La medaglia d'argento della nostra speciale classifica viene assegnata allo Slim Shady Eminem per Lose Yourself. E sul podio del concorso per la canzone perfetta per allenarsi, il disco rock che ha piallato Panama, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Welcome to- 1996, Illinois, United Center Building, il tempio dei Chicago Bulls. Il quintetto di Michael Jordan ha già calzato 3 anelli al dito in 5 anni, 2 li ha ceduti a Houston e ora combatte per il 4º titolo contro i Sonics di The Rain Man Sean Kemp, 6 volte in doppia cifra nelle ultime 10 gare. Nella città del vento, il basket non è uno sport, è un evento, una battaglia nell'arena che segue un copione prestabilito. Inizia con la voce di Ray Clay che annuncia i giocatori della squadra ospite, fra gli urli e i fischi dei tifosi di Chicago. L'occhio di bue esplode sull'uscita del corridoio, entrano gli eroi in maglia rossa sulle note di Sirius, degli Alan Parsons Project. Brivido. Cambridge. Carl Douglas e il suo produttore indiano Bidu Appaya hanno prenotato la sala di incisione per 2 ore. Devono registrare I Want to Give You My Everything e trovare una minchiata da buttare sul lato B, che tanto non lo ascolta nessuno. Così, quando mancano 10 minuti alla fine del turno, Bidu chiede a Carl di buttare un testo a casaccio su una specie di cippata cinese che gli è venuta in mente. Buttano tutto dentro senza pensarci su. Aggiungono una manciata di u e a per dare un'aria più festaiola e il pezzo è fatto. A casa. Solo che nelle sale è appena uscito I Tre dell'Operazione Drago, l'ultimo film del defunto Bruce Lee. La China Mania ha contagiato i giovani come l'acne. Il mondo balla ripetendo le mosse del Kung Fu. 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friend. Istantanee di storia della musica si ferma e torna tra poco. Solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Solo su Radio 105. Alle 2:30 del mattino del 17 giugno 1966, due uomini armati fanno irruzione nella Lafayette Bar and Grill di Paterson, New Jersey, e aprono il fuoco. Fred Noyox e il barista Jim Oliver muoiono sul colpo. Hazel Tanis, la cameriera, si spegnerà in ospedale pochi giorni dopo a causa degli oltre 20 proiettili conficcati nel suo corpo. Alla scena assistono tre testimoni, un pregiudicato di origine italiana e due inquilini del quartiere affacciati alla finestra. Tutti i testimoni dichiarano di aver visto due uomini di colore fuggire a bordo di un'auto bianca, l'auto del pugile Rubin Carter, detto Hurricane. A seguito di un processo molto sommario, Rubin Carter e il suo amico John Artis vengono condannati a 3 ergastoli, nonostante nessuno dei 3 testimoni sia stato in grado di identificarli nel confronto all'americana. Dopo 20 anni di battaglia legale, la Corte Suprema riconoscerà le motivazioni razziali dietro la condanna, prosciogliendo i 2 condannati da ogni accusa. Ma la storia dell'uragano, il peso medio che vinceva solo per KO, era già leggenda. Grazie alla voce di Bob Dylan. Bartender in a pool of 1988, Olimpiadi di Seoul, finale di 100 metri. They're taking the great advantage that he has away from you. Let's see his reaction now. Can't break. And it's a fair start. And it is Raymond Kerr with a start. It is Ben Johnson with a start. Can Kerr catch him? No! It's Ben Johnson! Ben Johnson does it again! Unbelievable! 9-7-9! Ben Johnson corre come il vento, distrugge Carl Lewis e fa 9,79. Record del mondo. Incredibile. Un successo planetario che però dura solo poche ore, perché il rapporto del dottor Park Jong-sei, responsabile del centro di controllo antidoping, è inequivocabile. L'atleta canadese ha assunto steroidi e deve essere squalificato. Fuori, la fiaccola dei cinque cerchi brucia per l'ultima volta sul mondo diviso in due blocchi. Il tennis è tornato fra gli sport olimpici dopo 64 anni di latitanza e John Williams dirige l'orchestra. L'inno è One Moment in Time. Canta Whitney Houston. You E sport condividono un legame inscindibile, spingono al vertice le potenzialità di corpo e mente, richiedono concentrazione, sforzo, abnegazione, costanza. Una sfida con pochi grandi vincitori, un piccolo numero di appassionati amatoriali e milioni di persone sul divano che giudicano senza sapere. Lo specchio impietoso del nostro tempo e di quello che verrà. È il 90esimo. Andiamo a casa.